scegli il futuro. Parlo dell'uomo non puro, quello che è sempre sicuro, che te la mette nel culo e ti dice che è più sincero. Troppe file di promesse messe sempre in stand by, fatte da cinici amorali proprio come Dorian Gray. Prometto nel cielo, ed è scritto dentro il Vangelo, ma ti regalano il gelo nel fango della giudecca. Sogni emisfera atrofizzano ogni pensiero, realizzano un desiderio soltanto all'uomo che lecca. Parlano, promettono tante sistemazioni, ma sono più bugiardi dell'opera di Goldoni. Come Pinocchio, burattini, imbroglioni, che ti promettono loro, ma per le loro intenzioni, per le loro fazioni, non certo per le nazioni, mentre alle popolazioni resta solo il sangue che gela. Promettono illusioni, quindi danno delusioni, poi si disfanno di noi come Penelope la tela. Ci fanno solo un danno per la